buongiorno. E come annunciato, inizia la prima trasmissione di un ciclo dedicato alla intersezionalità, che andremo a spiegare ovviamente di cosa parliamo. Siamo tante e tanti in questo studio. Sì, siamo tante e tanti redattori e redattrici di questa radio che si sono incontrati e incontrate, partendo dai loro ragionamenti singoli e dalla loro maniera di condurre le varie trasmissioni che conducono in questa radio. Quindi abbiamo Radio Africa, abbiamo Profondo Rosa, abbiamo Radio Escadi, abbiamo le compagne del Martedì Femminista e Lesbico, Attica Blues, Silenzio Assordante, Take It Easy, Roma Roma e CPT Balkan Music. Tutte trasmissioni e persone che si sono interrogate su che cosa significa realmente avere a che fare con i cosiddetti stranieri a vario titolo e con le varie lotte delle persone oppresse, e quindi da qui abbiamo iniziato a ragionare su un concetto che ci è stato molto utile, che sarebbe il concetto dell'intersezionalità delle lotte. Abbiamo cercato insomma di ragionare a partire da questo concetto, che insomma sembra un parolone complesso, ma in realtà è un concetto teorico e metodologico che però nasce da alcune lotte politiche specifiche, che sono soprattutto agli inizi quelle delle donne afroamericane. Infatti è una metodologia di analisi che nasce all'interno del movimento femminista negli Stati Uniti e che serve ad esplorare il modo in cui la categoria di genere si interseca, appunto si intreccia con altre categorie dell'esperienza, che poi corrispondono a delle relazioni di potere, di privilegio, come appunto la razza, l'etnicità, la classe, la sessualità, ma anche la disabilità, la religione, l'età. Sono tutta una serie di categorie che ci vengono presentate come dei fatti naturali, ma che in realtà sono delle costruzioni culturali, come insomma andremo a vedere insieme. E la metodologia dell'intersezionalità serve proprio per individuare i modi in cui queste categorie operano in specifici contesti sociali e culturali, proprio perché se usiamo il termine razza, etnia, ma anche classe in contesti storici o geografici diversi, ovviamente anche il termine acquista dei significati diversi, proprio perché appunto non corrisponde a una realtà biologica naturale, ma è qualcosa che viene costruito artificialmente proprio per mascherare o giustificare delle relazioni di potere e di dominazione. E quindi anche quando viene utilizzata una di queste categorie, in realtà molto spesso serve poi a mascherare l'azione o l'interdipendenza di un'altra categoria. Ma insomma, per capire meglio di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti sembra un concetto troppo teorico, ecco, è importante ricordare che è un concetto che nasce all'interno della storia del movimento femminista afroamericano. Infatti è stato utilizzato per la prima volta da una femminista nera negli Stati Uniti nel 1989, sto parlando di Kimberly Crenshaw, che ha utilizzato questo concetto per analizzare la violenza maschile contro le donne nere, e quindi il fatto che appunto le donne nere negli Stati Uniti, a partire proprio dall'esperienza storica della diaspora nera, della tratta degli schiavi e della schiavitù, e delle relazioni di potere anche tra i generi che si sono sviluppate in questa storia, hanno dovuto lottare simultaneamente sia contro il razzismo che contro il sessismo, e quindi in qualche modo non si riconoscevano nei discorsi fatti dalle femministe bianche americane, perché erano appunto discorsi che erano sempre articolati dal punto di vista delle donne bianche e di classe media. Quindi in questi discorsi, in queste pratiche politiche, l'esperienza delle donne nere veniva completamente cancellata, e spesso lottare contro il sessismo per le donne nere significava in qualche modo lottare contro i propri fratelli maschi neri, e quindi sembrava quasi un tradimento della lotta invece contro il razzismo, che vedeva le donne bianche non come alleate ma come invece in qualche modo soggetti oppressori, e quindi le donne nere si trovavano quasi obbligate a dover scegliere se lottare per il sessismo, contro il sessismo o contro il razzismo, e invece hanno decostruito nelle loro pratiche politiche questa dicotomia, affermando che razzismo e sessismo sono due sistemi di potere che sono sempre interconnessi, che agiscono simultaneamente, che si sostengono e si perpetuano a vicenda. E quindi già sul finire degli anni 70, appunto, nei primi testi pubblicati delle femministe nere si legge proprio che le donne nere afroamericane vivono, sperimentano un groviglio di oppressioni, per cui appunto le forme di sfruttamento che subiscono e anche la violenza che subiscono in realtà si articola intorno a queste categorie, specificatamente di razza e sesso. Però poi insomma altre femministe nere hanno riutilizzato questo concetto di intersezionalità anche a partire dall'analisi di altre categorie che appunto servono a identificare relazioni di potere, di egemonia, di subalternità. E quello che appunto le donne nere hanno affermato è che è comunque necessario smascherare il fatto che le politiche dell'identità, che spesso erano state utilizzate negli anni 80 negli Stati Uniti nei vari percorsi politici, ad esempio delle donne, dei gay, delle lesbiche, degli afroamericani, ecco, si portavano avanti dei movimenti di liberazione di alcuni gruppi sociali o alcune soggettività politiche, sempre a partire dalla propria identità. E quindi ovviamente insomma sappiamo, no, che è uno slogan centrale per il femminismo quello di partire da sé, e questo è importantissimo. Però proprio a partire da sé le femministe afroamericane mettono in discussione il fatto che se partiamo da una politica dell'identità rischiamo di presentare le differenze tra noi e altre o altri come qualcosa di naturale e immutabile, e quindi finiamo per offrire un'immagine che è un'immagine omogenea dei gruppi sociali che cancella le differenze al loro interno. E loro dicono, ad esempio, il femminismo bianco ha sempre usato lo slogan "siamo tutte sorelle", questo concetto della sorellanza globale, proprio in base al fatto biologico di essere donne, di avere un corpo di donna. In realtà, dicono le femministe nere, l'esperienza delle donne è diversa storicamente, geograficamente, a seconda del, appunto, del colore della pelle, delle scelte sessuali, della classe sociale di appartenenza. E quindi molto spesso i percorsi, per esempio femministi e antirazzisti, articolano i loro ragionamenti a partire dall'esperienza. Il femminismo insomma parla, le femministe spesso parlano come se le donne fossero tutte sorelle, come se subissero tutte le stesse forme di oppressione. Quindi, e invece i discorsi antirazzisti danno per scontato che tutte le persone nere siano maschi, quindi i discorsi antirazzisti vengono articolati al maschile, e i discorsi femministi a partire dall'esperienza delle donne bianche. E questo non fa altro poi che contribuire ad amplificare le tensioni tra i diversi gruppi. E invece quello che dicono le femministe nere è che l'esperienza delle donne nere è il prodotto dell'intersezione tra queste diverse categorie di potere, come il sessismo e il razzismo, e quindi queste loro esperienze specifiche molto spesso vengono cancellate sia nei discorsi femministi che in quelli antirazzisti. E invece proprio appunto a partire dagli anni 80 sia negli Stati Uniti che poi anche in Europa, seppure insomma con un certo ritardo, c'è stato un riconoscimento dei limiti proprio grazie alla critica delle femministe nere, c'è stato un riconoscimento dei limiti di come era stato articolato appunto il femminismo bianco occidentale a partire dall'esperienza delle donne bianche di classe media, che comunque appunto all'interno della storia della schiavitù o del colonialismo in realtà hanno giocato un ruolo di potere rispetto a quello di altre donne. E quindi mentre ad esempio il femminismo italiano e quello francese si sono concentrati molto di più sulla teoria della differenza sessuale, quindi sul fatto che la categoria di genere è la differenza fondamentale che sussume tutte le altre, l'analisi delle femministe nere afroamericane, ma anche delle donne nere che vivono in Europa, delle donne migranti o delle donne del sud del mondo, è servita proprio a smascherare questa analisi, a decostruire questa analisi per riconoscere appunto le differenze tra le donne. E quindi in realtà oggi non è più possibile articolare un discorso femminista senza tenere conto delle altre differenze che si articolano con il genere, perché altrimenti significherebbe comunque continuare a riprodurre delle gerarchie di potere o delle dinamiche di esclusione. E invece c'è un tentativo che appunto è in corso sia nel movimento, nella pratica, che nella teoria femminista da una parte all'altra dell'Atlantico, un tentativo di costruire delle alleanze transnazionali tra femministe e lesbiche che hanno appunto esperienze diverse e che provengono da contesti culturali diversi e quindi sperimentano l'oppressione di genere in maniera diversa a seconda che essa si articoli appunto con le altre categorie di cui avevamo parlato, come appunto la razza, la classe, le scelte sessuali, l'etnicità e così via. E questo era un po' un nostro tentativo di introdurre cosa significa questo parolone intersezionalità, per capire poi nella pratica come ci può essere utile. E però insomma sicuramente ne parleremo ancora nelle prossime trasmissioni, proveremo a praticarlo, perché più che un concetto teorico, come dicevamo, è uno strumento anche operativo. Quindi oggi magari con l'intervista su alla compagna etiope parleremo molto della categoria di etnicità, di come questa categoria viene utilizzata strumentalmente, proprio perché per comprendere come ci può essere utile l'intersezionalità abbiamo bisogno in primo luogo di analizzare le varie categorie in base alle quali si articolano il potere e i privilegi. Aggiungo soltanto brevemente che credo necessario da parte nostra un posizionamento di gruppo, ma anche nei nostri percorsi soggettivi in questa stanza, da questi microfoni, insomma siamo tutte persone che hanno dei percorsi femministi, antirazzisti, antisessisti, antifascisti, a seconda dei casi ovviamente, insomma non stiamo a fare le nostre biografie politiche, ma credo che sia anche necessario, proprio perché affrontiamo questo discorso, che chiariamo che stiamo articolando un discorso da questi microfoni, da bianche e bianchi, almeno oggi in questo momento, e quindi ci posizioniamo insomma nelle questioni del razzismo chiarendo il nostro posizionamento di partenza e dal rispetto a, appunto alle altre categorie che andremo a poi a analizzare, che vanno a formare la ragnatela delle oppressioni, diciamo, che sottende l'intersezionalità. Siamo donne e uomini, siamo lesbiche, che non dico eterosessuali perché non voglio dare etichette a chi non si esprime insomma per sé, siamo appunto anche di età leggermente diverse, insomma cerchiamo di riportare a noi stessi i percorsi di cui insomma si è detto prima in sintesi, proprio perché il posizionamento da cui si parla cambia e performa la parola che si esprime soprattutto in queste tematiche. Sì, Sì, infatti forse una delle prime, come dire, conseguenze di questo ragionamento è il pensare a sé come soggetti sfaccettati, cioè portatrici e portatori sia di liberazione, sia diciamo soggetti oppressi, che anche portatrici e portatori di privilegi, come appunto dicevi anche tu, di oppressioni a nostra volta. Quindi diciamo è proprio importante anche in una progettualità politica di liberazione intesa in senso ampio accogliere e accostare queste diverse esperienze, insomma, che poi ci forniscono una lettura critica dei sistemi di oppressione forse un po' più attuale di quelli citati precedentemente, che appunto utilizzando un'unica categoria che sussume tutte le altre differenze si pretende anche come progetto di liberazione esaustiva per tutte e tutti, ci sta diciamo un po' stretta. Forse può anche aiutare, poi facciamo un piccolo stacco musicale perché magari passiamo anche a introdurre proprio l'intervista. Sommariamente l'idea insomma di come si svilupperanno le trasmissioni in questo ciclo, ne abbiamo pensate alcune, ovviamente diciamo quelle principali, forse ne nasceranno altre dalle nostre discussioni. Abbiamo pensato appunto di iniziare con una riflessione sul colonialismo italiano. Non a caso, perché diciamo questo tentativo insomma di collocarci all'interno di un sistema estremamente complesso in cui appunto le condizioni, le esperienze specifiche segnano una posizione precisa all'interno e dei movimenti, per esempio il movimento femminista, ma anche appunto in generale nel mondo. Noi ci troviamo di fronte a una dimensione transculturale ormai assodata, basti pensare alla globalizzazione insomma in atto. Vediamo che questa globalizzazione, che così come ce la impongono non ci piace per niente, comunque definisce ancora una volta delle forme di esclusione ed inclusione insomma dei soggetti dentro e rimette anche in discussione in buona parte il concetto di Stato-Nazione anche come metodologia di pensiero, diciamo così. Quindi quello che era il corpo politico delle donne, che era poi bianco, occidentale, eccetera, che è emerso insomma storicamente dalle elaborazioni femministe europee negli Stati Uniti, va un po' appunto smantellato, messo in discussione, e quindi dobbiamo anche pensare a delle possibili alleanze o a trovare dei linguaggi comuni un po' appunto transnazionali. E quindi ci sembrava particolarmente importante sia partire proprio dalla critica che al rapporto tra centro e periferia, e da questa anche partire dalla critica all'eredità coloniale italiana, che appunto poi lo vedremo nella trasmissioni anche seguenti. Comunque l'eredità coloniale italiana ha evidentemente segnato il rapporto tra i movimenti, diciamo così, di liberazione o critici delle esistenze europei e di altri invece parti del mondo. Il colonialismo italiano è una delle pagine diciamo più nascoste della storia italiana, forse non a caso. Nel colonialismo italiano abbiamo individuato, non noi ma insomma altri anche prima di noi, ma noi riprendiamo questa interessante riflessione, tutti quei dispositivi di controllo, sfruttamento, inclusione, esclusione appunto, che anche oggi vengono praticati. Basti pensare all'intreccio complesso ma anche abbastanza chiaro tra le politiche sessuali e quelle razziali, lo abbiamo visto col pacchetto sicurezza per esempio. E quindi partiremo insomma dopo la trasmissione di oggi, che invece presenta un'intervista dal punto di vista di una protagonista insomma della recente storia etiope, faremo delle trasmissioni anche sul colonialismo italiano. Arriveremo poi a ragionare ovviamente di oggi, di quello che succede oggi, di come queste politiche continuano o si sono in parte trasformate sempre per creare sistemi di oppressione. E quindi parleremo dei media, ovviamente di tutte le politiche di controllo, parleremo anche del multiculturalismo, dedicheremo delle trasmissioni anche al pinkwashing e all'omonazionalismo, insomma questo più o meno partendo dal colonialismo italiano arriveremo a analizzare un po' le dinamiche che invece oggi ci circondano insomma. sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 12.39, continuiamo appunto questo ragionamento che stavamo facendo rispetto al problema della razza e anche in questo caso introducendo l'intervista della compagna etiope di come le divisioni etniche nella realtà dei fatti nascondono le divisioni di classe, come è stato storicamente soprattutto anche rispetto alle questioni che riguardano l'Africa. La compagna etiope di cui ascolterete l'intervista fa parte di il Partito Rivoluzionario Etiope, che è un movimento che nasce intorno agli anni 70, soprattutto negli ambienti universitari di Addis Abeba, e si schiera apertamente contro il Derghe. Il Derghe è il partito, la commissione militare che con un colpo di Stato nel 1974 ha abbattuto il potere imperiale di Haile Selassie. E loro appartengono poi paradossalmente a un gruppo etnico nella realtà dei fatti dominante, cioè quello degli Amara e dei Tigrini, gruppo etnico che dai tempi di Haile Selassie, fin da quando Haile Selassie ha ereditato l'impero coloniale nel 1930, è il gruppo etnico dominante. Nella realtà dei fatti l'Etiopia ha 50 etnie, noi continuiamo a definirle tali, nel senso usiamo un termine come dire così di compromesso, perché poi dietro il termine etnia si nasconde tutta una serie di contraddizioni che appunto ci proponiamo anche in qualche maniera di svelare durante questo ciclo di trasmissioni. Quindi 50 etnie dentro i confini di quella che viene conosciuta come l'Etiopia, e durante la guerra di conquista di Menelik queste etnie dominanti, i Tigrini e Amara, divennero le etnie che sostanzialmente avevano in mano il potere, la burocrazia e anche gli eserciti. Naturalmente c'era una maggioranza che erano gli Oromo, soprattutto contadini senza terra dei latifondi che appartenevano proprio a Amara e ai Tigrini, che invece erano ridotti in una condizione di semi-schiavismo. E il segno etnico del regime imperiale è ben definito, perché il governo centrale era composto per la maggioranza da ministri che provenivano appunto dal nord. Gli Oromo erano esclusi dalla gestione dello Stato e anche le forze armate, soprattutto erano di provenienza Amara e Tigrina. Questo regime etnico ha trovato un equilibrio fino al momento in cui Haile Selassie, dopo la guerra, ha cominciato un processo, anche se piuttosto flebile, di modernizzazione, che ha portato sicuramente a un mutamento di questi equilibri etnici che sono completamente saltati dopo il colpo di Stato del Derg. Quindi adesso la compagna che appunto ascolterete farà una serie di riferimenti poi a delle situazioni specifiche e anche al concetto di Stato etnico, che magari poi dopo l'intervista vediamo un po' di mettere a fuoco. D'une organisation éthiopienne qui s'appelle le Parti Révolutionnaire du Peuple Éthiopien, le PRPE. C'est une organisation qui existe depuis 39 ans et donc qui a été créée en Éthiopie d'une façon clandestine, parce qu'à l'époque c'était le régime impérial. Ensuite on a eu la dictature militaire. Faccio parte di un'organizzazione etiopica che si chiama il Partito Rivoluzionario del Popolo Etiope, un'organizzazione che esiste da 39 anni e che è stata creata in Etiopia in modo clandestino. All'epoca c'era il regime imperiale, poi c'è stato il regime della dittatura militare. La nostra organizzazione è sempre stata clandestina, un'organizzazione che comunque ha sempre contato numerosi membri. Durante la dittatura militare, nel corso del regime di Mengistu, sostenuto all'epoca dall'Unione Sovietica, c'è stata grande repressione, molte persone sono state uccise pubblicamente, altri sono passati sotto la tortura, molti sono dovuti andare in esilio. Io faccio parte di quelli che non possono ancora tornare nel paese, perché nel nostro paese non ci sono diritti democratici e non c'è possibilità di organizzarsi come si vuole. Sono tornata in patria nel 93

conseguenze del latifondo, e quindi erano semplicemente una forza lavoro semi schiavizzata. Poi c'era anche un altro aspetto delle divisioni etniche in Etiopia, che riguardava soprattutto le popolazioni nomadi pastorali islamiche, che erano in conflitto con il potere centrale. Quindi a ogni, diciamo così, etnia veniva in qualche maniera corrisponde una divisione del lavoro o un aspetto dell'attività produttiva o della proprietà della terra differente. I processi di modernizzazione che erano stati imposti dai Selassie in qualche maniera hanno ribaltato questa situazione. Per esempio nell'esercito sono cominciati ad entrare gli Oromo, però gli Oromo, l'esercito era stato finanziato e modernizzato dagli Stati Uniti in funzione antisovietica, e il finanziamento dell'esercito e della modernizzazione ha fatto sì che alcuni stati sociali come gli Oromo cominciassero a entrare nell'esercito, che prima era solo appannaggio degli Amarà, però naturalmente nei gradi più bassi, e furono proprio i bassi ufficiali e la truppa che cominciò poi a gettare le basi per quello che sarà la ribellione del Derg. E così anche per quanto riguarda l'accesso alla scolarizzazione, nelle scuole e nelle università cominciarono a entrare anche gli Oromo, che fino a quel momento erano stati contadini, e quindi arrivarono ad Addis Abeba cambiando anche il tessuto sociale della città, rendendola una città per così dire multietnica. Quindi queste erano la modernizzazione, e quindi un processo in qualche maniera capitalista di modernizzazione dello Stato, anche se portato avanti da Haile Selassie in maniera appunto flebile, incompleta, comunque sia provocava un disequilibrio rispetto alla questione etnica, e quindi la questione etnica diventa evidentemente come qualcosa di sovrastrutturale rispetto a quella che è la contraddizione di fondo, che è una contraddizione che si basa sui rapporti economici. Cosa ancora più evidente nel momento in cui il Derg fece il colpo di Stato, e quindi attraverso le sue riforme cambiò completamente questi equilibri, perché il colpo di Stato del Derg fu un colpo di Stato degli Oromo, nel senso che gli Oromo arrivarono al potere, lo stesso Mengistu era figlio di un Oromo, e quindi ci fu un capovolgimento di questo equilibrio etnico che si era stabilito dai tempi di Menelik e sostenuto da Haile Selassie. E questo naturalmente comporterà tutta una serie di situazioni che muteranno completamente l'assetto sociale ed economico della stessa Etiopia. Etniche e non, per portare avanti una politica inclusiva. Che venne al potere attraverso divisione etnica e non nazionale e inclusiva. Senti, hai insistito molto sul regime definito come un regime etnico, quello che è attualmente in vigore in Etiopia. Ci puoi spiegare brevemente come è organizzato? Perché noi italiani, nella nostra ignoranza, pensiamo all'Etiopia anzi come un paese molto coeso, molto solido, privo di magari quelle discordie etniche che si possono ritrovare altrove in Africa. E tu invece ci stavi spiegando adesso che la situazione non è questa, e che anzi c'è un regime che fa che cerca di operare affinché le divisioni etniche siano rese pratiche, effettive, e siano uno strumento di potere. Ecco, in che misura si sviluppa tutto questo? La federazione etnica che è stata messa in place in Etiopia è stata messa in place par le TPLF, Tigray People's Liberation Front, qui est une organisation du Nord. Donc, il y a l'Érythrée, ensuite il y a le Tigray. C'est une population de 3 millions de personnes, ils sont minoritaires, mais en venant au pouvoir, justement, ils ont... Nel nord del paese è stata messa in piedi una sorta di federazione etnica dal TPLF, che è un'organizzazione che raggruppa una popolazione di circa 3 milioni di persone. Quando sono arrivati al potere hanno rotto qualsiasi forma di coesione a livello nazionale, e dunque non ci volevano, perché noi siamo un'organizzazione che si definisce etiope, e dunque la minoranza che si trova al potere obbliga praticamente tutti ad organizzarsi in forma etnica.

anglo-americano, questo termine è stato usato soprattutto per sostenere la schiavitù e il mantenimento della schiavitù, e sappiamo anche appunto che oggi è, come dire, acclarato che le razze non esistono, e, però esiste il razzismo, e quindi questo fa sì che sia a volte necessario riprendere un tema come quello di una parola, scusate, come quello di razza, proprio perché nel momento in cui esiste il razzismo, per spiegare questo tipo di atteggiamento e di che relazione di dominio, insomma, nasconde una relazione di potere. Sì, appunto per parlare di questo a volte è necessario utilizzare la parola razza, anche perché oggi molto spesso si preferisce parlare di etnia invece che di razza, utilizzando questo termine come se fosse un termine neutro, ma di fatto politicamente corretto, diciamo. Sicuramente politicamente corretto, però appunto gli si addossa anche una neutralità che di fatto non ha, perché se la parola etnia ci libera dai connotati che riguardano la presunta superiorità biologica di una razza rispetto a un'altra, non ci libera la parola etnia, etricità, etnico, da rimandare invece a una costruzione culturale, quindi a una categoria mentale in cui di fatto di nuovo si costruiscono delle gerarchie di potere che non si ammantano più del supporto della biologia, ma si ammantano del supporto dell'antropologia, della cultura, eccetera, eccetera. Molto spesso abbiamo notato come oggi etnia di fatto venga usato proprio come sinonimo di razza, perché non è un concetto così semplice, complica molto la situazione nell'andare a vedere poi cosa sia realmente un'etnia, anche per esempio quello che diceva la compagna di cui abbiamo ascoltato l'intervista poco fa. Per esempio, lei contrappone nazione e etnia, parlando del fatto che il progetto del Partito Rivoluzionario di cui lei fa parte è un progetto di tipo nazionale e non etnico. Quindi consapevoli della complessità nell'utilizzare questo tipo di parole, cerchiamo di utilizzarle, ma mantenendo sempre aperto, insomma, lo specchio e l'approfondimento e l'attenzione alta sulla non neutralità delle parole. Sì, oltretutto il problema delle parole che lei ha assolutamente pesato, lei parla di nazione, non parla mai di nazionalismo, e poi più avanti dirà, o ha già detto, scusate che non mi ricordo bene, dirà che lei sta parlando di confini esattamente geografici, cioè c'è un confine geografico, dentro questo confine geografico vivono queste persone che hanno tutti gli stessi diritti, dovrebbero avere, e questo era il suo concetto di nazione, e non stava parlando di miti fondativi della nazione etiopica. Sì, sì, infatti, e poi sull'uso strumentale, appunto, poi è stato anche accennato, per esempio in questo caso, come in molti altri, la parola nasconde una relazione di potere di classe molto chiara. La dinamica a cui questi concetti, diciamo, poi danno vita, per esempio nel nostro mondo occidentale, l'abbiamo visto con la guerra nella ex Jugoslavia, per esempio, una per tutte, che ha proprio sdoganato questo, almeno per noi italiani a cui abbiamo partecipato, ha dato una giustificazione, ovviamente improbabile, però insomma era la giustificazione ufficiale per intervenire militarmente in quel paese, e quindi per esempio in quel periodo è stato anche analizzato e discusso anche questo termine, cioè ci siamo trovate noi stessi coinvolti, diciamo, in questa dinamica. Abbiamo anche visto come appunto le presunte etnie abbiano bisogno appunto dei miti fondatori, quindi adesso magari forse qualcuno può venirmi incontro sugli aspetti più storici, però sono spesso proprio delle costruzioni appunto create ad hoc, nel caso della Jugoslavia, ma non sì, solo. Sì, pensavo proprio a questo esempio che stavi facendo, per esempio il mito fondativo dei serbi è quello della dalla battaglia della Piana dei Merli nel 1389, in cui l'esercito serbo che si contrapponeva all'impero ottomano fu sconfitto. Su questo mito fondativo il nazionalismo serbo è cresciuto a dismisura, soprattutto anche rispetto alla relazione di potere che ci avevano i serbi nel Kosovo, dove praticamente avevano impostato una politica di vera e propria occupazione, che si contrapponeva poi al nazionalismo albanese, che a sua volta invece puntava, attraverso le operazioni militari dell'UCK, che poi divenne sostanzialmente la fanteria della NATO durante la guerra di Jugoslavia nel 99, se non ricordo male, che voleva la costruzione della grande Albania, cosa che poi hanno ottenuto con l'indipendenza proprio del Kosovo. E così anche gli stessi croati, il mito fondativo dei croati è che era una popolazione che difendeva i confini della cristianità. E poi, una volta che sono esplose le contraddizioni nella ex Jugoslavia, ecco qui che sono riusciti fuori quelle aspetti carsici della storia della Jugoslavia, come per esempio il periodo in cui il fascista Ante Pavelic con i suoi ustascia era al governo a Zagabria, e così come anche i cetnici serbi. Tutto questo poi è nato, cioè è stato preparato non a caso sia dai mass media, creando un'atmosfera di contrapposizione che per esempio si era manifestata apertamente negli stadi. Durante le partite di calcio per il Partizan e la Stella Rossa c'erano gli ultra, che allora erano guidati da Arkan, che poi sarebbe diventato la Tigre, che sarebbe diventato uno dei comandanti militari cetnici che guidava gli squadroni della morte, in contrapposizione appunto con i tifosi croati. E questo clima, creato appunto dai mass media e anche dalle piccole borghesie dei nascenti delle varie regioni della Jugoslavia, ha creato questo mostro che è il nazionalismo di stampo etnico. Sì, ma di artificiosità dei miti fondativi delle etnie, dei popoli e quindi poi degli stati e dei nazionalismi, in Italia insomma ne abbiamo un esempio talmente becero che diventa molto leggibile, che insomma è quello della Lega Nord, che ha inventato insomma le categorie della Padania, il mito del Dio Po, poi è andata a ripescare come miti fondativi la Lega Lombarda dei comuni che si contrapposero al Barbarossa, e quindi Pontida e tutto questo armamentario che è evidentemente inventato, cioè nel senso che ha una sua storicità, ma ovviamente chi combatteva contro l'imperatore Federico Barbarossa poco aveva a che fare con i discorsi che hanno fatto la Lega Nord, e su questo aggiungerei anche, non so se concordate insomma in qualche modo, che nonostante la Lega faccia tutto questo discorso non utilizza per sé la parola etnia ed etnico, proprio perché io credo in Italia, in Europa, nel cosiddetto Occidente, queste parole rimandano agli altri, rimandano ai non bianchi sostanzialmente. Eh sì, e poi visto che hai citato un esempio grandioso come quello della Lega, mi viene anche da dire che anche le donne sono molto investite da queste costruzioni appunto immaginifiche eccetera. Basti pensare che un altro dei pilastri della Lega era il celodurismo, e non è che è un caso insomma, quando vai a ricercare delle così categorie o dei punti fermi che definiscono la tua identità, perché effettivamente le donne sono assunte a simbolo di appunto proseguimento della storia di un popolo, o appunto in questi casi di una nazione, eccetera. E la stessa formazione insomma risorgimentale dell'Italia ha diciamo una linea di continuità molto visibile, poi ne parleremo, con poi la costruzione invece della razza, del concetto di razza che fu usato durante il fascismo, e quindi le donne occupano uno spazio diciamo importante e necessitano di controllo all'interno di queste costruzioni, e infatti vedremo come appunto i dispositivi di razzisti si accompagnano anche molto al controllo dei corpi delle donne o del ruolo insomma delle donne in una società. Infatti se prendiamo di nuovo partiamo dall'esempio della Lega, il problema in Italia non è soltanto stata la Lega, ma tutte le organizzazioni sia politiche che economiche che l'hanno supportata, perché ovunque ci sia la Lega al governo, sia statale sia locale, ci sono sempre delle circolari e delle delibere che sono contro la libertà sessuale di tutti, contro l'autodeterminazione delle donne e contro i diritti di chi non è nato in quel posto, non di chi risiede in quel posto, perché tu puoi essere non nato lì e risiedere, nel caso per esempio delle persone straniere, da 10 anni, ma sono all'ordine del giorno i bandi per il benefit per l'affitto soltanto per le persone italiane che risiedono nel posto. Quindi il problema è riuscire a capire come tutte le presunte costruzioni o di etnia o di popolo poi siano delle costruzioni sulle quali loro investono tantissimo, ma il problema sono anche le amicizie, i supporti che vengono da tutto il resto del panorama politico e sociale. Noi parliamo, per esempio, leggendo sempre i giornali, noi quando vediamo i partiti esterni dall'Italia che hanno lo stesso programma politico della Lega, si dice che sono partiti di estrema destra, quando si parla dei partiti leghisti in Ungheria, in Polonia, in Romania. Quando invece si parla della Lega come partito politico italiano, non si dice che è un partito di estrema destra. E questo, insomma, non per mettere altre discussioni adesso, insomma, che sono le 13:20, ma è anche molto esplicativo dell'ambiguità dei termini, delle alleanze che questa ambiguità nasconde rispetto a una vita pratica e quotidiana di diritto per tutti e per tutte. Un'ultima cosa che mi viene in mente a proposito della Lega, nel senso che la Lega non utilizza il concetto di etnia, ma costruisce sostanzialmente un luogo artificiale, che è la Padania, che è una sovrastruttura, perché in questa Padania ci sono il gruppo sociale che la Lega sostanzialmente difende, una piccola borghesia che soprattutto lavoratori autonomi che hanno un'attività economica legata come baricentro verso l'Europa del Nord piuttosto che non verso l'Italia, soprattutto l'esempio della Lega è anche una dimostrazione di come quelli decisivi siano i rapporti di produzione. Dietro questi rapporti di produzione poi si costruisce una costruzione artificiale, teorica, sovrastrutturale, che cerca in qualche maniera di dare a questi rapporti economici una sostanzialità dal punto di vista anche teorico-storico. Quando sono le 13:21 torniamo in diretta, ci andiamo ad avviare verso la conclusione di questa interessantissima trasmissione, che alla quale seguiranno anche altre vi faremo vedere quando e come. E volevamo dare dei riferimenti, dei romanzi, dei saggi, insomma magari dei libri dove potete andare a cercare questi concetti, se vi va di approfondirli. Potremo cominciare con dei romanzi, magari andiamo un po' più sul leggero. Mazza Menghisse, Lo sguardo del leone, lei è una scrittrice etiope che vive negli USA, scrive in inglese, ma recentemente, quest'ultimo mese mi sa addirittura, è stata tradotta in italiano. Quindi Lo sguardo del leone, editore Neri Pozza. Oppure abbiamo Gabriella Germandi, Regina di Fiori e di Perle, lei è una scrittrice italo-etiope che scrive in italiano, quindi non dovreste trovare nessun problema a leggerla. Nei saggi invece troviamo Sabrina Marchetti, Le ragazze di Asmara, che usa il concetto di intersezionalità per analizzare le interviste delle donne eritree immigrate in Italia e impiegate come lavoratrici domestiche. Questo poi è un argomento che magari affronteremo nelle prossime trasmissioni. Anna Maria Rivera, La bella, la bestia e l'umano. E per finire Giovanna Campani, Genere, etnia e classe, che insomma direi che magari lo leggiamo per primo. Con queste indicazioni bibliografiche ci avviamo verso il termine appunto di questa prima trasmissione di questo gruppo Intersezionalità di Radio Onda Rossa, che vi ricordiamo le voci che avete sentito sono, come dire, l'incontro e il confronto tra varie redattrici e redattori, tra varie trasmissioni di questa radio. E abbiamo appunto ascoltato l'intervista con una compagna del Partito Rivoluzionario del Popolo dell'Etiopia, e non siamo partite a caso dall'Etiopia proprio perché continueremo nei prossimi incontri parlando di colonialismo italiano, perché appunto in questo discorso ci interessa posizionarci dentro il dibattito e non tirarci fuori come delle entità super partes quali non siamo. E quindi niente, per quanto riguarda questa voce vi saluto vi lasciamo insomma ai prossimi appuntamenti di questa radio a partire dalle 14, ma anzi prima forse avremo anche una corrispondenza. Sì, mi fanno cenno di sì, e lascio magari il microfono a chi vi vuol salutare. Vabbè, io vi voglio salutare, vi saluto però senza aggiungere altro, e ci sentiamo uno dei prossimi sabati di nuovo. Assolutamente, quindi saluto anch'io, non prima di avere dato la parola alle altre due voci che hanno fatto questa trasmissione di oggi. Un saluto anche da Radio Africa, e poi ci sentiremo anche nel pomeriggio. E poi c'è Radio Euskadi e Le ore di religione, che insomma sta lontano ma saluterà. È come se avesse salutato. E poi insomma alle 2 il palinsesto continuo, ma tra poco manderemo una telefonata dal presidio di Riano Flaminio contro la discarica. Quindi questa è sempre Radio Onda Rossa, questi sono sempre gli 87.9, questo è l'inizio di un esperimento corale che parte appunto da tante riflessioni che vorrebbero insomma poi riuscire a non a proporre un testo unico, un pensiero unico, ma cercare sempre di analizzare e di capire quanto e come il nostro linguaggio corrisponde alla nostra realtà e alle nostre pratiche, e cercare appunto di trovare tutti quei meccanismi anche di carcerazione che fanno le parole, incasellando degli argomenti e educandoci inconsapevolmente magari a delle forme mentali razziste delle quali noi cercheremo di scardinare nascita, vita e prosecuzione tranquilla, almeno all'interno dei nostri linguaggi. E quindi questo sarebbe la trasmissione, questo sarebbe il saluto finale, voi mi dite tutte di sì. E quindi prima di salutare dobbiamo assolutamente leggere un volantino riguardo una iniziativa che ci sarà mercoledì 25 gennaio 2020.